English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Cominciamo il nostro mese di ottobre incontrando un regista che tra l'altro ritroveremo anche sulle pagine del nostro nuovo numero di English 24 in edicola, Spike Lee, regista americano che però ha girato in Italia il suo ultimo film Miracolo a Sant'Anna. Lo abbiamo incontrato, gli abbiamo chiesto molte cose di questo film e quindi potremo ascoltare la viva voce, la vera voce di Spike Lee. Lo sentiremo parlare nel suo inglese molto particolare, Giulia. Cominciamo già a avvertire gli ascoltatori che non sarà facile capire subito tutto quello che Spike Lee dice, come lo dice, ma sentiamo intanto come gli è venuta l'idea di questo film tutto italiano. Spike Lee. Well, I've been coming to Italy since 1987, festivals and just vacation, and every time I come, almost every time I've come, journalists like yourself ask me, so speak gay, when are you gonna shoot a film here in Italy? And I would always say, I want to, but I don't have the story. But I came across a book by James McBride, a great book called Miracle St. Anna. I was not going to shoot a film in Italy just to be shooting something. I needed a story, and this was a great story. Black soldiers, World War II, partisans, villages, fascists, Nazis. It had all the elements. Eccolo qua, Spicchi, lui stesso prende in giro un po' gli italiani per come pronunciano Spike. Evidentemente quelli che conosce lui dicono Spicchi. Insomma, Spike Lee racconta com'è nata questa storia di Miracolo a Sant'Anna e soprattutto l'idea di girare un film italiano che risale, insomma, molto tempo fa. Sì, dice che, e qui usa una quella forma che viene riservata a quelle azioni che vogliamo far capire che sono durate tanto tempo. Quindi lui ci spiega: I have been coming in Italy since 1987. Quindi I have been, quindi molto costruita, ci sono due ausiliari e poi c'è il gerundio di come, sostanzialmente vuol dire vengo in Italia dal 1987, però è una forma verbale, devo dire, molto usata comunque, che effettivamente convoglia quest'idea di una cosa che è durata appunto vent'anni che Spike Lee viene in Italia per naturalmente festivals o just vacation, quindi tutti i festival a cui ha partecipato con i suoi tanti film oppure semplicemente in vacanza. E ogni volta che veniva in vacanza per un festival, questi giornalisti che lo chiamano Spicchi, cosa gli dicevano? Dice journalist like yourself, l'avrebbe potuto dire anche like you, ma è un rafforzativo, quindi proprio come te, ecco, sarebbe giornalisti proprio come te mi chiedono, so Spicchi, e lui, vabbè, pensi, vede che qualcuno l'ha chiamato così una volta, gli è rimasto impresso, cerca di imitare quello che viene percepito come un accento italiano, e questi appunto, questi giornalisti gli chiedono when you gonna shoot a film here, gonna sappiamo che è molto americano per dire when are you going to shoot a film here, quindi to shoot sappiamo sparare, però anche filmare, girare, quindi quando girerai un film qui in Italia. E qui è interessante vedere come usa il would, perché letteralmente I would say vorrebbe dire io direi, cioè per noi è, pensiamo sempre che sia un condizionale, ma in questo caso viene usato come per dire che in tutte quelle occasioni io rispondevo così, quindi in realtà noi avremmo usato un imperfetto. È un uso molto particolare che può trarre in inganno, mi rendo conto, però il senso è questo, cioè quando c'è una cosa avvenuta in passato che viene raccontata e quindi viene usata questa strana forma. Perciò lui tutte le volte che i giornalisti in questi vent'anni gli chiedevano questa cosa, lui rispondeva così: lo farò, ma quando lo farei, I want to, lo voglio fare, but I don't have a story, ma non ho una storia. E poi cosa è successo? Perché I came across a book. Sì, to come across vuol dire incontrare, ovviamente incontrare sappiamo anche to meet, però to meet per un libro non sarebbe così bello, perciò lui si è proprio si è imbattuto, ecco, in italiano diremmo così, si è imbattuto in un great book, questo book di James McBride, che sappiamo da cui è tratta poi la sceneggiatura del film. I was not gonna shoot just for shooting something, l'ha detto, io non avrei girato giusto per girare qualcosa. Esatto, giusto per girare, quindi come in italiano, just for, anche noi diciamo, no, giusto per, e in inglese lo stesso, solo che sappiamo che se davanti a un verbo mettiamo for, allora poi ci dobbiamo mettere il gerundio, quindi for shooting. E lui invece dice che qua c'erano tutti gli elementi che potevano interessarlo. E qui forse dovremmo ricordarcela questa cosa, perché ci abbiamo costruito intorno tante polemiche. A lui la prima cosa che dice sono i black soldiers, cioè per lui questa comunque comunque è una storia che parte dal suo tema, che è il tema degli afroamericani. In buona fede, e io ci credo, ha detto: io non volevo costruire dei cliché sugli italiani, volevo occuparmi degli americani. Tra poco sentiremo come lo ha raccontato lui, ma intanto sentiamo quali sono stati i suoi rapporti realizzando questo film con gli italiani. Besides Roberto Cacciuto and Luigi, who are co-producers, we have a lot of people. Basically, this is an Italian production, and if there's anything they feel is going to be stereotypical, they have been given the green light to pull our coattails, James and myself, to let us know, because we don't want to do to Italians what has been done to African Americans in cinema so many years. So we're fully aware of that, and we don't want to have any stereotypical images of Italians in this film. So as far as acknowledging the contribution of black soldiers in World War II, Vietnam is different with Francis Ford Coppola's Apocalypse Now and Oliver Stone's Platoon, some other films, and even you look at a Jarhead and Three Kings about the Gulf War. But World War II, I don't think it's changed today versus the 50s, 60s, 70s, and 80s when these films are still being made. Allora, ecco quello che lui voleva fare. Lui cita questo produttore, questo Roberto, produttore italiano, e dice: io gli ho detto, per favore fermami se qualcosa non va dal punto di vista di un italiano, perché lui aveva l'onestà di dire: io questo non lo posso percepire. Sì, e qui uso un'espressione che possiamo comprendere ma non usiamo letteralmente così in italiano, che è they have been given a green light, quindi gli è stato dato luce verde, quindi gli è stato dato l'ok, il via libera to pull our coattail, di tirare la coda delle nostre giacche, cioè di tirarci per la giacca, di avvertirci, quindi di darci uno spintoncino tutte le volte che c'era qualche cosa di stereotipato, cioè se noi usavamo uno stereotipo anziché essere più fedeli allo spirito degli italiani dell'epoca. We don't wanna do to Italians what has been done to Americans. Ecco quello che lui voleva. Sì, perché dice: questo è quello che è successo, what has been done, stessa espressione di prima, cioè per dare l'idea di qualche cosa che è stato fatto per un lungo periodo di tempo to Afro-Americans per così tanto tempo. Perché lui ha anche cercato un po' di vedere qual era questa immagine nei film del passato e di fare un paragone tra quello che succedeva anni fa e nel cinema di oggi. Perché lui dice era l'importante to acknowledge the contribution of black soldiers in World War II. Quindi to acknowledge, knowledge sappiamo che è conoscenza, to acknowledge vuol dire far conoscere, quindi era importante far conoscere il contributo dei soldati neri durante la World War II. Perché dice, per quanto riguarda il Vietnam c'è stato ovviamente Francis Ford Coppola, Platoon di Oliver Stone, Jarhead, Three Kings, ma per invece la Seconda Guerra Mondiale no, sembra che i soldati fossero solo bianchi, e lui dice questo è successo 50s, 60s, 70s, 80s, è proprio arrabbiato, quindi era ora insomma che qualcuno facesse vedere che anche nella Seconda Guerra Mondiale il contributo dei black soldiers è stato importante. E poi c'era ancora qualcosa di ancora più generale che lui voleva far venire fuori da questo film, sentiamo sempre Spike Lee. The film is because that's something I wanted to do at the time. Now of course in the early stages of my career, I could not have done this because my skill level was not at the same point it is now. So, I mean, everything is time, and I just feel this is the right time to do this film. Well, it always amazes me to how inhumane human beings can be to each other. So, whether it be war or a government's lack of help for its own citizens, it's all the same. Questa è una cosa che dicono spesso, abbiamo sentito anche alcuni scrittori nelle scorse puntate dircelo, era un'idea che io avevo in mente da tempo ma aspettavo il momento giusto per dedicarmi. Anche lui dice, era un film che già volevo fare ma aspettavo il punto giusto della mia carriera. Sì, dice molto con molta franchezza, dice in the early stages of my career I could not have done this. Non avrei potuto fare un film come questo. Perché? Perché my skill level, il livello delle mie conoscenze nel senso di capacità tecniche was not at the same point as it is now. Quindi probabilmente l'idea c'era, chi non vuole fare un grande film epico sulla guerra, ma lui stesso dice, quando ho iniziato non sarei stato in grado. Everything has its time. C'è un tempo per ogni cosa. Io vorrei proprio spezzare una lancia per il sostantivo stage, che non significa stage all'italiana, cioè non significa un periodo di prova in un ufficio, in una realtà lavorativa. Stage è proprio il livello, quindi il livello, ma anche il periodo, perciò in the early stages of my career, e anche, come possiamo dire, se lo si vede sempre da questa idea di progressione, no? Quindi all'inizio di una cosa, l'early stage è l'inizio di un processo che poi, proprio perché è un processo, ha un suo proseguimento, che in generale porta a un miglioramento. Quindi in inglese diciamo internship e esatto. non diciamo stage, perché quello invece capirebbero. Quello è francese, quello è lo stage, l'internship in inglese è un errore che spesso commettiamo. E poi stage, anche se parliamo di palcoscenico, ma qua certo. È tutto un altro significato. This is the right time per parlare di un concetto generale che non riguarda solo la Seconda Guerra Mondiale, non riguarda solo la storia che ha raccontato, ma di un concetto che lui voleva far uscire da questo film. E qui di nuovo dice "It always amazes me", ed è quello che l'ha spinto probabilmente a fare il film. Ciò che mi to amaze vuol dire stupire, ma di più, proprio che mi lascia sconcertato. E how inhumane non vuol dire inumano, ma disumano. Quindi quanto disumane people can be to each other. Le persone possono essere le une verso le altre. Questo era Spike Lee, che ha parlato del suo miracolo a Sant'Anna, ma non solo. Lo ritroviamo nelle pagine del nostro English 24 in edicola. Il nostro tempo radiofonico per questo sabato si conclude qua. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'auguro di una buona serata.